Intorno al tavolo stampano il denaro, spara al diavolo ed è tutto più chiaro. Il mondo è in mano a qualcuno che ci controlla e ci spazza via, vorrei che fosse in mano mia. Intorno al tavolo stampano il denaro, spara al diavolo ed è tutto più chiaro. Il mondo è in mano a qualcuno che ci controlla e ci spazza via, vorrei che fosse in mano mia. Muti, più punti io di Putin, urti come delle utri, pecore in mezzo ai lupi, sputi merda e rifiuti, datemi contenuti, dividimi in sette reti, tranno a bip e divieti, l'asino è cornuto secondo il bue, due ragazze diciottenni sugli U2, quanti sono i capi di Stato? Due, sono più discusso dell'AP2. Prova il triangolo con l'occhio al centro, fa figo e va di moda, tanta roba come la piovra negli anni 80 in TV, solo che adesso molta gente non canta più, va diretta in Parlamento, parla meno, gira col cellulare spento nell'auto blu, e quando guardo Santoro da quassù non mi passa più. Intorno al tavolo stampano il denaro, spara al diavolo ed è tutto più chiaro. Il mondo è in mano a qualcuno che ci controlla e ci spazza via, vorrei che fosse in mano mia. Intorno al tavolo stampano il denaro, spara al diavolo ed è tutto più chiaro. Il mondo è in mano a qualcuno che ci controlla e ci spazza via, vorrei che fosse in mano mia. Panico, esco da un trauma cranico, mi hanno operato, ora ho il cervello biomeccanico, domandami, prego, accetto, accedo, in qualcosa eccedo, tipo al buio ci vedo, tipo leggo nel pensiero, entro nella tua mente, rubo idee e procedo, nella testa c'è un demone che appare e dice, come in un film porno l'attrice, dimmi che cazzo fare, parto come in sala, in sana aria, in Italia, rituali, tagli, ritagli, rital, ti vuoi calmare, al mare andare, oggi costa il triplo, tipo minibar, il mio avatar in vacanza al posto mio, ora sei padre ok, ma non sei padre Pio. A me da piccolo mi hanno legato e molestato, a te da piccolo ti hanno regalato un motoscafo. Intorno al tavolo stampano il denaro, spara al diavolo ed è tutto più chiaro. Il mondo è in mano a qualcuno che ci controlla e ci spazza via, vorrei che fosse in mano mia. Intorno al tavolo stampano il denaro, spara al diavolo ed è tutto più chiaro. Il mondo è in mano a qualcuno che ci controlla e ci spazza via, vorrei che fosse in mano mia. Venerate la Madonna Industria con il dio denaro, gente, venerate, mi taglio le vene per pagare le rate, venerate, gente, meditate, gli scarti della società, senza lavoro siamo scarti della società, conoscerai tra poco tempo la verità, amico la realtà si infrange, è un bambino torturato che piange. Non è mai troppo, la rima perfetta è un cerchio con la croce sotto. La vita perfetta gira 90 a un doppio 8. La strada, il compasso, la squadra, il complotto. I simboli invecchiati, specchiati, i capitali vari, gli avari, i peccati capitali. Pittogrammi sopra noi le stelle e schede sim, salabim, sotto la mia pelle inviene i dati. Intorno al tavolo stampano il denaro, spara al diavolo ed è tutto più chiaro. Il mondo è in mano a qualcuno che ci controlla e ci spazza via, vorrei che fosse in mano mia. Intorno al tavolo stampano il denaro, spara al diavolo ed è tutto più chiaro. Il mondo è in mano a qualcuno che ci controlla e ci spazza via, vorrei che fosse in mano mia.